Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Sono più di 350 i lavori pubblici non finiti in Italia. Tra contenziosi, burocrazia, finanziamenti scomparsi e dietro front politici, il nostro paese ha conquistato un triste primato. Quando hanno cominciato a costruire il teatro di Jarre, la rivoluzione a Cuba era appena cominciata. Il Brasile vinceva i mondiali di calcio in Svezia, lo scià di Persia, Reza Pahlavi, divorziava da Soraya e in Vaticano regnava ancora Pio XII. Correva, infatti, l'anno 1958. Trascorso ormai mezzo secolo, quel teatro è ancora lì, da finire. Con il cemento ormai divorato dal tempo e dall'incuria, i ferri arrugginiti, la sua aria desolata. Qualche anno dopo che avevano cominciato a tirare su le gradinate, già servivano i primi interventi di manutenzione. E nel 68, quando ormai da 4 anni nel continente era stata aperta l'autostrada del Sole, la cui costruzione era iniziata un annetto prima del teatro, iniziarono le varianti. Un calvario durato fino al 1987, poi più niente. A parte una quantità imprecisata, ma certamente notevolissima, di denari buttati dalla finestra. Roba da far impallidire perfino la fabbrica di San Pietro, diventata nei secoli sinonimo di un cantiere aperto per l'eternità. Ma i lavori per la basilica più grande della cristianità a un certo punto finirono. Ci vollero 120 anni e 20 papi, è vero, mentre per il più modesto e incompiuto teatro di Jarre ne sono passati già 51, con 49 governi e 22 differenti presidenti del Consiglio, senza che mai venisse data una risposta alla domanda chiave: ma perché un teatro proprio a Jarre, per giunta costruito fuori asse? E perché, sempre a Jarre, una piscina olimpionica di 49 metri, anziché dei 50 regolamentari, naturalmente incompiuta anch'essa? O un campo di polo, con tribune per 22.000 spettatori in un paese di 26.000 abitanti? O un velodromo, anch'esso, manco a dirlo, mai completato? Oppure un megaparcheggio multipiano mai finito, privo di uscita? E chissà se per dare risposta a questi interrogativi sarà sufficiente l'idea lanciata un paio di anni fa dal sindaco Concetta Sodano, detta Maria Teresa. Trasformare quell'immenso cimitero di assurdità edilizie in un parco archeologico dell'incompiuto siciliano, sperando magari di convincere i turisti a preferire una visita a quegli orrori anziché alle bellezze di Taormina. Magari, sempre che un giorno si riesca a finire almeno il parco. Il fatto è che di parchi simili in Italia se ne potrebbero fare decine. Il paese dove tutti si lamentano perché non si riescono a realizzare le opere pubbliche necessarie e dove da 40 anni, esattamente dal 1969, si vagheggia di un ponte gigantesco che unisca Scilla e Cariddi, è anche il paese con il record assoluto delle opere non finite. Un anno e mezzo fa il procuratore antimafia Piero Grasso rivelò anche il loro numero, 357. Di queste, disse, più della metà in Sicilia. Abbiamo viadotti sospesi, dighe senza acqua, stadi senza gradinate. Su un ponte, tra due piloni, hanno costruito una casa abusiva. Così abbiamo anche il primo ponte abitato. Com'è stato possibile arrivare a questo punto? L'elenco delle cause sarebbe troppo lungo. Basti pensare che ci sono ancora da completare opere della vecchia cassa del Mezzogiorno, chiusa per ben due volte. La prima nell'84, la seconda nel 93, quando aveva cambiato nome in Agenzia per il Mezzogiorno. Appena prima dell'entrata in vigore dell'euro si fecero i conti, arrivando alla conclusione che per chiudere la partita della vecchia Casmez ci sarebbero voluti ancora almeno 10 anni e 7.500 miliardi di lire. Qualche volta la colpa è del progetto. Una volta, costruendo un lungo viadotto, ci si è accorti solo al momento di piazzare le ultime travi che fra due piloni c'era un dislivello di un metro. E il viadotto è lì da anni. Spesso le imprese litigano con le amministrazioni. Nel suo ultimo rapporto, l'Autorità per la Vigilanza sui Trasporti Pubblici, presieduta da Luigi Giampaolino, ha rilevato come in Sicilia ci siano 8 dighe in costruzione da più di 20 anni, con problematiche legate in genere all'adeguamento dei progetti e ai contenziosi con le imprese. Per non dire delle perizie di variante che fanno lievitare i costi come la panna montata, con il risultato che poi i soldi finiscono e l'opera resta incompiuta. Ma intanto chi doveva mangiare ci ha mangiato, a sazietà. Nel novembre del 2008 Roberto Galullo ha raccontato sul Sole 24 Ore la storia della diga di Gimigliano sul fiume Melito in Calabria. Cominciata nel 1982, sarà pronta, forse, nel 2015, a causa di una interminabile sequenza di contenziosi, arbitrati e varianti. Costati un mucchio di milioni. Ma non di rado la responsabilità è di amministrazioni incapaci perfino a spendere i soldi. L'amministratore delegato della Cassa Depositi e Prestiti, Massimo Varazzani, ha scoperto nelle pieghe del bilancio più di 1 miliardo di euro di mutui concessi agli enti locali per realizzare infrastrutture piccole o grandi e che non sono mai stati utilizzati da anni. Se si considerano poi i prestiti che sono stati soltanto parzialmente utilizzati, si arriva alla cifra di 6 miliardi e mezzo. Mica male, no? C'è chi obietterà, ma non succede soltanto da noi. Ha ragione. Il 3 aprile 1882 a St. Joseph, nel Missouri, Jesse James veniva assassinato da un sicario dell'agenzia Pinkerton. 2 mesi più tardi, il 2 giugno, moriva a Caprera Giuseppe Garibaldi. Intanto a Barcellona cominciavano a costruire la Sagrada Famiglia, forse la più famosa al mondo fra le grandi opere incompiute. Non passò che un anno e il progettista, l'architetto Del Villar, gettò la spugna. Al suo posto venne ingaggiato niente meno che l'architetto Antoni Gaudí. Il genio del modernismo catalano elaborò il progetto per 40 anni, definendo i minimi particolari dell'opera mentre la costruzione procedeva. Alla sua morte, nel 1926, i lavori furono praticamente interrotti. Ci fu poi la guerra civile, la conquista del potere da parte di Francisco Franco e la costruzione, finalmente, venne ripresa negli anni 40. A 127 anni dall'apertura del cantiere, lo stato di avanzamento della Sagrada Famiglia è al 60-65%. I lavori potrebbero andare avanti altri 100 anni o non finire mai, ma il cantiere eterno di Barcellona resterebbe comunque un monumento dell'architettura mondiale e i turisti continuerebbero a fare la fila per visitarlo. Qualcuno ha forse il coraggio di paragonare il capolavoro incompiuto di Gaudí al velodromo di Giarre? Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Sergio Rizzo, Opere interrotte, dal Corriere Magazine del 18 giugno. Alta, bionda, occhi verdi e obesa. Trovare l'anima gemella su internet è diventato molto più facile da quando proliferano chat e siti di incontri, ma ora in India chi è in sovrappeso può iscriversi a un sito dedicato agli incontri tra taglie forti. Il processo di occidentalizzazione dell'India è inarrestabile, nonostante vi si oppongano tradizione e religione. In un paese in cui l'uso del computer non è più appannaggio esclusivo di un'esigua minoranza dedita alla tecnologia, non potevano mancare i siti web dedicati agli incontri tra sconosciuti. Da poco anche tra sconosciuti non bellissimi e non magrissimi. Anche tra sconosciuti obesi, insomma. Fino a ieri, la possibilità di incontro tra i partner doveva prima passare in India attraverso un rigido esame di appetibilità fisica, nel rispetto del profilo tracciato negli studios di Bollywood e diffuso tra le masse. E non è inciampo da poco, se si tiene conto che la produzione cinematografica indiana è stimata di parecchio superiore a quella prodotta da tutto il resto del mondo e ha soprattutto circolazione interna. A rendere possibile gli incontri e la ricerca dell'anima gemella tra la larga maggioranza del popolo di internet, che, stando all'evidenza statistica, non è certo formata da adoni, ci ha pensato il sito Overwhite Study. Pare che alla novità arrida un grande successo, poiché permette finalmente a tutti di tentare la ricerca dell'anima gemella e, stando ai si dice, la maggioranza degli iscritti riguarderebbe le persone decisamente sovrappeso, da cui appunto prende nome il sito in questione. I creatori sono fratello e sorella, stanchi di sentirsi rivolgere inviti a dimagrire da parte di tutti i loro contatti telematici. Da qui l'idea di un luogo virtuale in cui potessero incontrarsi liberamente tutti quelli che si trovano nelle loro condizioni. Ed è stato successo immediato. I risultati, insomma, non si sono fatti attendere e diversi matrimoni hanno avuto luogo, comprovati questa volta dalle relative foto. Anche perché nel frattempo il sito è divenuto una vera e propria impresa, nella quale sono rimasti gratuiti i soli servizi di base. Infatti, per circa 3.000 rupie, circa 45 euro, si ha pieno accesso al sito per un anno intero. Somma modesta anche a livello della nostra disastrata economia, ma ben più alta rispetto ai costi standard della vita in India, per cui il servizio resta di fatto limitato alla parte più agiata della popolazione. Segnale di vitalità, comunque, per lo sterminato e potenzialmente ricchissimo mondo della comunicazione via web indiana, dove oltre 1 miliardo di persone sono clienti possibili di servizi internet di prossima generazione. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Mario Adinolfi In India, un sito per incontri tra obesi, dal quotidiano Europa del 18 giugno. Non è questione di gusti. I pasti serviti sugli aerei in classe economica non piacciono a nessuno. Eppure, con più o meno appetito, finiamo per mangiare tutto o quasi, forse più per noia che per fame. Ecco uno dei misteri minori dell'umanità. Chi sceglie i pasti di classe economica sugli aerei? Spero li abbiate osservati con l'attenzione che meritano. L'aspetto è quello di cibo per gatti lasciato 10 giorni fuori da una stazione meteorologica polare. Le tortine sono rinsecchite, le verdure pallide, i salumi sembrano essere stati affettati con raggio laser. Il pollo è quasi sempre gommoso, se lo addentate, avete l'impressione di masticare un giocattolo dei vostri figli. Le olive rimbalzano come palline da ping pong, peccato per il colore che si confonde col tavolo, altrimenti si potrebbero usare davvero. Ormai non è più questione di linee aeree. Mentre in classe business, club, magnifica, executive, connoisseur, la varietà linguistica esiste ma costa, le compagnie gareggiano in raffinatezze, i passeggeri nella tradotta, scusate, in classe economica, si vedono sbattere di fronte a un vassoio che verrebbe rifiutato con sdegno in un campo profughi. Domanda: perché? Ho cercato di rispondere durante un volo Milano-Londra, dove questa delicata questione dottrinale ha impegnato passeggeri e assistenti di volo per un'ora buona. Le opinioni che hanno riscosso più successo sono le seguenti. 1. Le compagnie aeree intendono punire i passeggeri per aver voluto risparmiare sul biglietto. 2. I dirigenti delle compagnie aeree non mangiano sui loro aerei. 3. I dirigenti delle compagnie aeree sono alieni e quando viaggiano si portano in borsa panini allo zono. 4. I catering manager, quelli che scelgono i menu, non sanno spendere i loro soldi. 5. I catering manager sono gli stessi che scelgono i deodoranti dei bagni. 6. I catering manager sono sadici. 7. Noi passeggeri siamo masochisti. A nome della minoranza rappresentata da me stesso, ho avanzato un'ottava ipotesi. Forse alla gente quella roba piace. Non ci piace il sapore, ci piace averne diritto. E una volta che l'abbiamo davanti, un po' per pigrizia e un po' per spirito d'avventura, apriamo la bocca e mangiamo. Per dar forza all'ipotesi ho invitato i miei interlocutori a guardarsi intorno. Quanti passeggeri avevano accettato il vassoio? Quasi tutti, compresi quelli che protestavano. E in un orario folle come le 11 del mattino masticavano qualcosa che era troppo gelido per essere un breakfast e troppo crudele per venir chiamato lunch. Non pretendo di sondare le profondità della mente dei viaggiatori. Sono uno di loro e so che talvolta è impossibile. Invito soltanto le compagnie aeree ad avere pietà di noi. Se ci date qualcosa, la mandiamo giù. Meglio, quindi, non darci niente. Un bel digiuno volante è quello che ci vuole. Se lo chiamate flying diet, chissà, forse siamo disposti a pagare un supplemento. Avete ascoltato la lettura di un brano tratto dal libro di Beppe Severgnini, Manuale del perfetto turista, Rizzoli Editore, 688 pagine, 14,50 euro. Letture di Radio 24. South Park, l'irriverente cartoon ideato da Trey Parker e Matt Stone, sfida il politically correct nel nome della libertà radicale, riscoprendo il libertarismo figlio di Adam Smith e Ludwig von Mises. La genialità di Parker e Stone è stata accorgersi che ai giorni nostri si è aperta una nuova frontiera della trasgressione comica grazie al fenomeno conosciuto con il nome di correttezza politica. Il nostro tempo avrà anche cercato di fare a meno delle reverenze convenzionali delle generazioni precedenti, ma ne ha sviluppate altre che gli sono proprie. Queste possono non assomigliare alle reverenze tradizionali, ma sono imposte nello stesso modo, con pressioni sociali e a volte sanzioni legali, con le quali si puniscono coloro che osano violare i nuovi tabù. Oggi molte scuole superiori e università hanno codici verbali che cercano di definire ciò che si può e non si può dire al loro interno e, in particolare, vietano tutto ciò che possa essere considerata un'offesa riguardante la razza, la religione, il sesso, la disabilità e una serie di altre categorie protette. Il sesso non sarà più un tabù nella nostra società, ma il sessismo lo è. South Park ha fatto una satira crudele di tutte le forme di correttezza politica. Leggi anti-omofobia, indottrinamento alla tolleranza nelle scuole, buonismo hollywoodiano di tutti i generi, tra cui ambientalismo e campagne antifumo, l'Americans with Disabilities Act e le Paralimpiadi, e l'elenco continua. Il programma critica la correttezza politica in nome della libertà. È per questo che South Park è effettivamente un programma satirico sulle pari opportunità. Spesso si fa beffe delle vecchie reverenze, nonché delle nuove, attaccando violentemente e in egual modo sia la destra che la sinistra, poiché entrambe cercano di limitare la libertà. L'episodio intitolato «Combattimento a stampelle» è un ottimo esempio dell'equilibrio e dell'imparzialità di South Park e del modo con cui può offendere entrambi gli schieramenti politici. In tipico stile South Park, l'episodio tratta un argomento contemporaneo controverso che è persino giunto nelle aule di giustizia: la possibilità per gli omosessuali di ricoprire cariche di comando nei Boy Scout. L'episodio si fa beffe dei tipi vecchio stampo che vivono in città e che insistono nel legare incarichi di comando a Big Gay Al, un personaggio ricorrente il cui nome la dice lunga. Salta fuori che l'uomo, presumibilmente etero, che i Boy Scout scelgono per sostituire Big Gay Al, è un vero pedofilo che inizia ad abusare immediatamente dei ragazzi, fotografandoli nudi. Come il programma fa spesso, anche se con stereotipi, South Park mostra simpatia per gli omosessuali e per i loro diritti di vivere la vita come preferiscono. Ma proprio nel momento in cui l'episodio sembra semplicemente mettersi dalla parte di coloro che condannano i Boy Scout di omofobia, esso prende una direzione inaspettata. Big Gay Al in persona difende il diritto dei Boy Scout di escludere gli omosessuali in base al principio della libertà di associazione. Un'organizzazione deve essere in grado di impostare regole proprie e la legge non deve imporre le nozioni di correttezza politica della società a un gruppo privato. L'episodio rappresenta al meglio South Park. Osserva una questione complicata da entrambi i punti di vista e arriva a una soluzione assennata. E il principio in base al quale viene risolta la questione è la libertà. Come mostra l'episodio, Big Gay Al è libero di essere omosessuale, ma i Boy Scout, quale organizzazione, sono liberi di fare le proprie regole ed escluderlo dai posti di comando, se lo desiderano. Niente potrebbe essere più calcolato per rendere South Park offensivo nei riguardi della correttezza politica di questo libertarismo, perché se applicato costantemente demolirebbe l'intero apparato del controllo verbale e della manipolazione del pensiero che i buonisti hanno cercato di costruire per proteggere le loro minoranze preferite. Il libertarismo è una filosofia di libertà radicale e, in particolare, celebra il mercato libero quale forma di organizzazione sociale. In quanto filosofia, deriva dalla riflessione dell'illuminismo scozzese nel XVIII secolo da filosofi quali Adam Smith, il quale sosteneva il libero commercio e la riduzione dell'intervento governativo nell'economia. Il libertarismo trova in particolare le sue radici nell'opera della scuola austriaca di economia e soprattutto negli scritti di Ludwig von Mises e Friedrich Hayek, i quali offrono la difesa più inflessibile della libera attività economica quale fattore fondamentale per la prosperità e il progresso. Il termine libertarismo fu diffuso da Murray Rothbard, uno studente di Mises, che sviluppò la critica più radicale dell'interferenza statale nella vita economica e sociale, una filosofia della libertà che rasenta l'anarchismo. Con il suo appoggio alla libertà incondizionata in tutti i settori della vita, il libertarismo rifiuta la categorizzazione data dallo schieramento unidimensionale standard dei partiti politici di destra e di sinistra. Contro la versione collettivista e anticapitalista della sinistra, i libertari rifiutano tutte le forme di pianificazione economica e vogliono che le persone siano lasciate sole nella ricerca del loro interesse personale, secondo i loro desideri. Ma in antitesi ai conservatori, i libertari si oppongono anche alla legislazione sociale e in generale sono a favore della legalizzazione delle droghe e dell'abolizione di tutte le leggi riguardanti la censura e la pornografia. Parker e Stone si sono dichiarati pubblicamente libertari il che spiega perché il loro programma finisce con l'offendere sia i liberali che i conservatori. Come ha affermato Parker, evitiamo gli estremi, ma odiamo i conservatori e ancora di più i liberali. Questa appare essere una valutazione accurata delle lezioni che si apprendono dal programma. Anche se non è amico della destra, South Park è più incline a criticare le cause della sinistra. Avete ascoltato la lettura di un brano tratto dal libro South Park e la filosofia, a cura di Robert Arp, ISBN Edizioni, 296 pagine, 17 euro. A Napoli un uomo è morto nell'indifferenza generale. I presenti si sono dileguati velocemente, ignorando quel corpo a terra e le urla della donna che al suo fianco implorava aiuto. I napoletani sono abituati a fingere indifferenza quando qualcuno viene ucciso per strada, ma questa volta l'indifferenza era vera. Chi volesse avere un'idea di dove ci stia portando il nuovo Evo, deve prendersi la briga di andare in rete e guardare la morte avvenuta a Napoli dell'ambulante Petru Birla de Andu, suonatore di una fisarmonica che era rossa. L'uomo è stato ammazzato in strada qualche settimana fa da una sventagliata di mitra sparata da giovani in moto. Le immagini in rete da qualche giorno sono state riprese dalle telecamere a circuito chiuso. L'uomo era con la moglie a una fermata della Cumana, la funicolare napoletana. Poi la sua vita è finita. Ma non ci meravigliano gli spari in città. A Napoli, a New York, ci sono quartieri dove può succedere di sedere al ristorante all'aperto di una bella piazza e mentre uno mangia i fusilli, dall'altra parte della strada appare un uomo che corre. Pochi secondi. E sulla sua scia ecco un altro uomo che corre, ha una rivoltella, gli spara. Ai tavoli la gente continua a mangiare, la testa china nel piatto. Vidi questo fatto a Napoli nel 1986, uno scippo a Tokyo o ai quartieri spagnoli è purtroppo nelle umane cose, ma della morte del signor Petru Birla de Andu ci scuotono gli attimi finali. Il video lo mostra mentre è accasciato per terra e l'anello delle 15 persone intorno a lui si dilata fino a svanire. Ognuno bada bene a non esserci. I presenti sono assenti. Non si può dire di vedere persone terrorizzate. Guardiamo persone che hanno istintiva familiarità con l'odore della violenza. Lo riconoscono. Sanno cosa c'è da fare per salvare la pelle un'altra volta. Stare alla larga. Se un uomo grida aiuto, che gridi pure. Sto andando da un'altra parte proprio ora. Mi raccomando, se sparano a qualcuno, tu vieni subito a casa. Nel video, accanto al rumeno che muore come di colpo decidesse di dormire, che muore educatamente come se chiedesse scusa di sporcare il pavimento della nostra città, vibra una donna. È la moglie di Petru. Grida aiuto, ha tenerezza per il marito, si china su di lui. A queste immensità, intorno la gente fa come se non stesse succedendo niente, come se non ci fosse un uomo che agonizza, le urla della donna che chiede aiuto. Tra i fuggiaschi, con l'aria assente e l'uomo che muore, c'è un abisso incolmabile, una callosa sordità sociale che ormai è parte intrinseca dell'epoca e di noi. Non esiste più la società, rete di cellule coordinate tra loro, ma individui nel più sigillato distacco reciproco. La vita al bar, a una fermata ferroviaria, alla posta, è sottoposta alla riconosciuta cessazione del contratto sociale. Uomini monadi sopravvivono in mezzo alle pericolose allucinazioni del linguaggio. Una vigorosa stretta di mano che non significa niente, dare il buongiorno con una voce squillante, sorridere in fretta. Un codice che ha il valore di una cultura residua, dura a morire, l'eco di un mondo fottuto. La morte del signor Petru è la morte di tutto, guardiamola bene. Eccoci, individui distanti, separati da vite del tutto impermeabili fra loro. Viviamo, amiamo, lavoriamo, strutturalmente soli. Quel fisarmonicista così fragile da lavorare proprio per strada, dove si muore, era friabile come un biscotto. Infatti era straniero e per vivere faceva musica. E chi la sente più, la musica, nel regno dei sordi? E anche se la musica fosse eventualmente sentita, che vorrebbe dire sentire la musica quando ognuno si occupa solo di sé, mentre una persona muore in solitudine, come un uccello abbattuto lontano dal nido? Poi, ogni monade è tornata in cella. Ha mangiato un gelato ed è andata a dormire. Che è una cosa inutile. Mentre siamo svegli, facciamo finta di dormire. È per fregare la morte. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Alessandro Schwed, Il suonatore Petru che muore in silenzio alla fermata della funicolare dice molto di noi, da Il Foglio del 18 giugno.